La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di 24, qui cadono i pezzi in studio ma bisogna sorridere, sorridiamo. 16.07 primi 55 secondi, in diretta vi saluto e vi ringrazia Oscar Giannino per l'ascolto, in diretta in podcast. Un saluto anche a Gennaro che propone formalmente che il conduttore di Radio 24 in occasione del 18° compleanno della radio non dicano più il termine radioascoltatori, rivolgendosi vici a voi che ci ascoltate, perché dice è un termine vecchio, anziano, e gli ascoltatori di Radio 24, ma oramai di tutte le radio, interagiscono con voi, chiamano all'800240024 per intervenire, scrivono sms in tempo reale commentando 349-238-6666. Quindi la sua proposta di Gennaro è chiamarli non radioascoltatori ma radio interattori. Io mi limito a formalizzare questa proposta, fateci sapere con le vostre osservazioni se volete essere chiamati radio interattori. I neologismi magari all'inizio sembrano assurdi, però il concetto è giusto, di sicuro non siete ascoltatori passivi. Di cosa parliamo oggi? Al di là del contest aperto su radioascoltatori o radio interattori, oggi, come promesso, facciamo un passo in avanti per approfondire i referendum dopo le vicende che anche oggi sono aggiornate della vicenda catalana. Sapete, se non avete sentito il giornale radio ve lo dico in due parole, ma non parliamo di questo. Comunque la Corte Costituzionale spagnola ha sospeso, proibisce formalmente la riunione dell'Assemblea della Catalogna prevista per lunedì prossimo, quella in cui si materializza la formalizzazione della proclamazione del referendum al Parlamento, dopodiché dovrebbe, secondo un dispositivo già votato prima del referendum, iniziare il percorso della secessione. Ma la Corte Costituzionale interviene e dice è illegale. Vedremo nei prossimi giorni che cosa succede e se qualcuno dal Vaticano risponde alla richiesta che la Catalogna ha fatto di una mediazione della Santa Sede. Ma comunque, detto questo, poiché si avvicinano i referendum consultivi in Lombardia e in Veneto il 22 di ottobre, facciamo un passo avanti oggi per capire questi referendum su che cosa davvero sono. Al netto di quello che pensate come voto politico, chiamateci all'800240024 per dirci come la pensate. Alcuni dicono ma qui conta il fattore politico, e ovviamente chi è contro i promotori dice inutile perdere tempo, inutile spreco di soldi, eccetera eccetera. Io vi ricordo che a questi referendum consultivi arriviamo dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto, negando invece il referendum che era stato proposto precedentemente da Regione Veneta e che faceva riferimento appunto a un quesito che chiedeva anche l'opinione dei veneti su la possibilità di erigersi a Repubblica o meno. Ecco, invece, con la sentenza 118 del 2015, la Corte Costituzionale, bocciando quel referendum consultivo indetto dal Veneto con la legge regionale 16 del 2014, ribadì che le richieste di referendum consultivo possono venire in materia di autonomia rafforzata, quindi non su quesiti che chiedano siete favorevoli o meno alla Costituzione del Veneto come Repubblica indipendente e sovrana, bensì referendum consultivi che siano coerenti all'articolo 116 della nostra Costituzione. E di questo tipo qua sono infatti i referendum consultivi che si tengono in Veneto e Lombardia. Su quali materie possono essere chieste le autonomie rafforzate è precisamente indicato dalla Costituzione, perché la Costituzione dice che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere chieste sulle materie che sono di legislazione concorrente, e sapete che non sono state modificate, ristrette in senso centralistico, come proponeva invece il testo sottoposto al referendum degli italiani che il 4 dicembre scorso lo hanno bocciato. Quindi sono quelle vecchie indicate dalle disposizioni della Costituzione come emendata nel 2001, e sono tante le materie, perché le materie di legislazione concorrente in cui le regioni possono chiedere l'autonomia rafforzata, a quel punto c'è una trattativa con il governo centrale, ci deve essere un'intesa, su questa intesa si deve poi pronunciare anche il Parlamento. Io ve le elenco solo per farvi capire che sono materie di grande importanza, questo per dire, ma sono cose inutili. Insomma, nelle materie di legislazione concorrente attuali sono quelle relative a rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute. Tutela della salute non è l'ordinamento sanitario, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti, qui c'era un accentramento tentato sulle infrastrutture strategiche nazionali di trasporto nel testo della Costituzione, però bloccato, quindi restano porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, qui bisognerà fare un inciso perché è molto importante questa parte, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Ecco, e poi a questa materia, queste 21, se ne aggiungono altre 3 che vengono dal secondo comma dell'articolo 117, e cioè giudici di pace, norme generali sull'istruzione, ambiente e beni culturali. Perché è importante sottolineare che di queste 24 materie un caveat importante bisogna riservarlo alla parte che vi ho elencato a un certo punto, e che si riferiva a coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, perché in materia ci sono un bel po' di sentenze della Corte, e quindi questa va inteso da parte della Corte che non ci possono essere però modifiche essenziali nel meccanismo di ripartizione del fondo di solidarietà tra regioni, e quindi si può chiedere e trattare tra regioni e governo su attribuzione di quote, di sovraliquote, eccetera eccetera, e comunque l'impianto coerente con l'istituzione è che in presenza dei riconoscimenti di autonomie rafforzate il governo deve anche trasferire le risorse per il loro esercizio. Cosa diversa è sub iudice, diciamo così, è tutta da vedere se invece la richiesta fosse relativa a quello che si chiama il residuo fiscale, cioè quote a prescindere da nuove competenze, però più elevate del totale di ciò che gli abitanti di quella regione, i residenti, pagano rispetto a ciò che lo Stato poi ritrasferisce in spesa all'interno di quella regione. Perché sapete che uno dei punti aperti su cui c'è una grande polemica è proprio quello relativo all'ampliamento della quota rispetto al sovrappiù che si paga per la Lombardia. Stiamo parlando di una quota molto molto molto rilevante, multipla rispetto alla Catalogna. Allora, questa è, scusate la lunghezza, ma bisogna essere precisi, la materia su cui siete chiamati in Lombardia e in Veneto a pronunciarvi. Tenete presente che, e qui poi veramente ho finito, in realtà queste iniziative non sono una particolare novità, anche se i giornali italiani questo, fino a questo momento, non lo hanno spiegato, perché negli anni alle nostre spalle numerose regioni hanno deliberato di aprire tavoli con i governi in coerenza al dispositivo dell'articolo 116. Però nessuna di queste ipotesi di regionalismo differenziato è andata a buon fine. La prima fu per esempio la Toscana nel 2003 che lo chiedeva sui beni culturali, dopodiché la Lombardia nel 2007, e qui l'elenco delle richieste di autonomia rafforzata erano 12 materie, quindi molto più numerose. Sempre nel 2007, a dicembre, però, fu il Veneto ad approvare una delibera con 14 materie, diventava, tra cui l'istruzione. Nel luglio 2008 il Piemonte ha approvato una delibera per un'autonomia differenziata, qui le materie si restringono, diventano 6, e poi arriviamo fino all'Emilia Romagna che nella scorsa, nei mesi scorsi, in realtà non ha votato una delibera, ha annunciato l'intenzione, un comunicato stampa della Giunta, di voler utilizzare l'articolo 116 per ottenere maggiore autonomia. Ecco, queste delibere non sono mai andate da nessuna parte, ed è la risposta che dice: ma perché fate un referendum? Basterebbe chiederlo. Come vedete, l'elenco è numeroso di chi l'ha chiesto. Non sono andate da nessuna parte queste richieste, perché il governo ha fatto regolarmente finta di non sentire. Allora, troppo lungo, ma qualche elemento per capire che sui giornali fino a questo momento non c'è stato lo spazio per scrivere. Con noi è il professor Mario Bertolissi, che insegna diritto costituzionale all'Università di Padova. Buon pomeriggio e grazie. Naturalmente la licenza per lei, dopo aver ringraziato, di correggere qualunque fesseria abbia detto fino a questo momento. No, mi complimento, sa, per il resoconto che ha fatto. Quindi nessun errore. No, inconsueto tra l'altro. Inconsueto, vabbè, ma qui ci picchiamo, però se dedichiamo un'ora a questa materia, tanto vale essere precisi. Allora, lei lo sa che la prima obiezione è: questa è una maniera inutile di spendere i soldi. Qui non parlo al giurista solo, parlo anche, lei è tra i promotori, insomma è tra i sostenitori di questa iniziativa, di questo referendum consultivo in linea con l'articolo 116. Cosa risponde? Ma penso che non sia difficile replicare che i fenomeni di sperpero di pubblico denaro sono talmente diffusi ed elevati che non è neanche il caso di sprecare molto tempo per dire che 14-20 milioni di euro, quello che sarà almeno per il Veneto, è una grande spesa. Lei sa che cosa è costato per il contribuente il ritardo di talune operazioni di sistemazione delle crisi bancarie. Sì. Sa che cosa è costato il fatto di aver preso provvedimenti per l'immaginario ponte sullo stretto di Messina, per il quale si pagheranno qualche centinaio di milioni per attività rese che non serviranno allo scopo. Il mancato abbinamento della consultazione referendaria sulle trivelle alle elezioni amministrative è costato qualche altro centinaio di milioni. Da questo punto di vista credo che noi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta nell'evocare fatti che hanno generato eventualmente spese inutili. Qui io dopo aggiungo anche che si tratta tutto sommato di porre mano agli istituti che sono considerati vitali per la democrazia, soprattutto quando la democrazia rappresentativa è in crisi come oggi è in crisi. Perché in un recente sondaggio fatto da Demopolis, se non ricordo male, per il gruppo della Repubblica, la conclusione era che la fiducia dei cittadini nel Parlamento e nei supremi organi dello Stato si aggira sull'8%, su partiti del 6%. Quindi un correttivo, un suggerimento, una verifica di che cosa i cittadini pensano, parziale magari, credo che abbia una sua utilità. Allora, seconda domanda, molto diffusa anche tra i primi tweet e gli sms che riceviamo, scusate. E qui si apre una domanda, perché le vicende catalane hanno un'influenza, è ovvio, visto l'impatto che hanno nella comunicazione pubblica. Allora, secondo lei, professor Bertolissi, è vero che a furia di dire no a qualunque richiesta di maggiore autonomia si rafforzano le istanze più radicali secessioniste? Questa è la mia idea, avendo seguito negli anni la Catalogna, molti non la condividono, ma questa è la mia idea. Oppure, al contrario, come ritengono tanti altri, è battendo la via di autonomia sempre maggiore che si finisce inevitabilmente poi alla secessione? Lei che dice? No, io penso che l'opinione che lei ha espresso per prima, che mi pare sia la sua opinione, sia quella corretta. E per una ragione molto semplice, avendo avuto la fortuna, devo dire, professionalmente di occuparmi di questo tema fin dal 1992, quindi per 25 anni, le posso dire che la Corte aveva sempre drasticamente bloccato ogni iniziativa, diciamo le due precedenti iniziative sempre della Regione Veneto. L'ultima, che ha invece concesso la consultazione referendaria, sicuramente per molte, diciamo, percezioni come avvocato posso aver avuto e anche per aver letto contributi di colleghi che hanno affrontato il tema prima che ci fosse il giudizio, ecco, dicevo che molto probabilmente la convinzione di fondo è stata proprio quella di dire, in fondo ci conviene sentire che cosa vogliono. Obiettare sempre che non si può o resistere, dopo porta evidentemente a delle rotture. Nel caso in questione penso invece che possa aprirsi una fase dialettica positiva che non porterà all'accerazione di sorte, perché c'è la consapevolezza delle condizioni in cui versa il paese, ma c'è anche, diciamo così, la pretesa di vedere quantomeno ridotte le discriminazioni, il modo formidabilmente ingiusto secondo il quale le risorse vengono distribuite sul territorio nazionale. Dicevo che ci può essere la consapevolezza e la determinazione nell'avviare, non dico una soluzione a soluzione perfetta, ma insomma a una soluzione che sia meno inappropriata. Se mi consente solo un'aggiunta, il dato di riferimento per chi vive da queste parti è, da un lato, la Regione Friuli Venezia Giulia, spesa regionalizzata pro capite circa 4.500 euro, a fronte dei 2.700 euro del Veneto, ma soprattutto il Trentino Alto Adige. Eh già. Ecco, ragioniamo dei 7 agli 8.000, è evidente che se ci sono 30 e passa comuni confinanti col Trentino Alto Adige che vogliono andare in Trentino Alto Adige e non in Lombardia e in Emilia, e Sappada che ha già avuto l'assenso del Senato per andartene in Friuli Venezia Giulia, direi che qui c'è un problema. Un problema reale, al di là di tutte le teorie che si possono avanzare. Ed ecco che allora prestare una certa attenzione a quel che viene in fondo chiesto in linea generale, non in linea generica. Perché si tratta di dire sì o no attraverso un atto di indirizzo politico. Vai, tratta, e anche il discorso di porta a casa più che puoi, beh, vale quello che vale. Ci sarà un metro della saggezza, del colloquio, di ciò che è possibile in un certo particolare momento e via di questo passo. Ecco, comunque io concordo con quello che lei ha detto prima. La Catalogna viene fuori dopo. Perché insomma, se avessero trattato lì addirittura la Corte Costituzionale Spagnola del 2010 si è rimangiato pezzi fondamentali dello Statuto del 2006, quindi solo che anche questo nella formazione italiana sparisce, perché siamo arrivati a considerarla una minoranza illegale. Una minoranza, se l'avessimo fatta votare legalmente senza problemi avremmo preso atto che era una minoranza, per carità di Dio. Però detto tutto questo, ieri non a caso abbiamo dedicato la puntata all'autonomia speciale siciliana, ricordando ai nostri ascoltatori che soprattutto a chi dice non facciamo questi altri referendum, ci sminuzziamo sempre di più. Intanto noi consideriamo cristallizzata una situazione per la quale l'autonomia speciale, per motivi che erano oggettivi nell'immediato secondo dopoguerra, l'abbiamo data a chi ne fa un certo uso, il Friuli e il Trentino Alto Adige, a chi ne ha fatto un uso opposto, cioè la Sicilia, e accettiamo questa situazione cristallizzata. Non si capisce perché, perché gli ordinamenti si adeguano nella storia. Oppure, professor Bertolisi, ha ragione chi dice no, sbagliato Giannino, perché ci sono parti della Costituzione che nella stessa scrittura della Costituzione sono dichiarati inalterabili. Ecco, siccome poi un po' è vero, allora che senso ha che un ordinamento si dichiari inalterabile nel tempo? No, guardi, qui c'è un grande straordinario equivoco. Innanzitutto è chiaro che la Costituzione non poteva... Quando dice alla fine che non è ammessa la forma di revisione costituzionale, cioè che non può essere assoggettata a revisione costituzionale la forma di governo repubblicana, e dopo si è d'accordo nel dire che non si possono toccare i principi fondamentali, i principi di regime, non vuol dire che questa dovrà durare vita naturale durante, in perpetuo. Vuol dire, guardate, che se non ci sono più le condizioni, questa Costituzione non è che la si può modificare. Se la modificate in queste parti vuol dire che vi date una nuova Costituzione. Ecco. Sarebbe stata una pretesa folle, no? Oh. Quella è. No, perché questo va ribadito a chi pensa che ci sono ordinamenti per sempre, non nella storia. Un ordinamento è il frutto di una convergenza politica. Le convergenze politiche mutano nella storia, non è che esistono per sempre. È come quando, cari ascoltatori, Draghi vi dice l'euro è per sempre. Allora, uno vede, ha studiato l'unione monetaria e sa che il 99.9 sono state annunciate e poi sono cadute, ma un conto è scriverlo, altro conto è che avvenga davvero, non so se... No, ma è così, e se mi consente, scusi, solo una notazione a proposito dei principi che lei ha evocato e a loro non assoggettabilità a revisione costituzionale. Quando prima io ho citato l'ingiustizia nella distribuzione territoriale delle risorse pubbliche, che è clamorosa, attestata dalla Corte dei Conti, Ragioneria Generale dello Stato, mica dalla Regione Veneto Lombardia, in fondo finisco col dire questo: guardate che bisognerebbe attuare in modo più corretto i principi costituzionali di cui all'articolo 2 dovere di solidarietà, l'articolo 3 principio costituzionale di uguaglianza. È vero esattamente il contrario. Eh sì, anche perché abbiamo un meccanismo che disincentiva i più virtuosi, che insomma in termini di finanza pubblica, di efficienza e di equità, al senso dell'articolo 2, è l'esatta violazione. Esatto. Altra obiezione, professor Bertolissi. Alcuni dicono no. Nella globalizzazione lo Stato nazionale già è poco, ma se noi recediamo a piccole realtà, significa essere ancora più travolti. Questo per esempio è l'argomento Meloni, per intenderci. Ecco. Come si risponde? Ma io penso di rispondere così, che se qualcuno studia gli ordinamenti, insomma, si piega sul libro, perde un po' di tempo, scopre che gli ordinamenti più stabili, quelli più forti, quelli più unitari sono gli ordinamenti federali. Per ovvie ragioni, perché c'è la sintesi del plurale. Se tu vuoi ottenere il risultato della stabilità attraverso il metodo di Procuste, che è quello di voler avere sempre l'uomo fatto ad una sola misura, evidentemente finisce per forzare. Forzando crei controspinte che prima o poi ti si ritorceranno contro. E direi che questa esperienza, almeno per quello che mi riguarda, nella sua piccolezza, perché non va mica enfatizzata, sarà vissuta civilmente per quello che è, finirà per collocare in fondo, almeno questa parte del territorio nazionale, all'interno dell'esperienza del costituzionalismo liberale. Quello cioè che non ha paura di discutere e sentire la voce anche contraria per migliorare, e ci allontana un po' dal costituzionalismo giacobino che abbiamo visto all'opera l'altro giorno, ad esempio in Spagna. Lei ha visto che la Gran Bretagna ha consentito alla Scozia, facendo una legge apposita, di celebrare un referendum che poteva anche essere portare alla richiesta di secessione, e invece la Spagna ha mandato l'esercito. La differenza lì, il pensiero non si combatte con i carabinieri, il pensiero si combatte discutendo. Questo almeno quello che io ho capito e capisco essere alle radici di un ordinamento costituzionale civile. E anche a mia opinione, naturalmente io ai radioascoltatori o ai radiointerattori, come preferisce chiamarli Gennaro, dico che ci saranno anche puntate in cui ovviamente c'è chi è contrario, perché già mi stanno come sempre accusando di propaganda. Però quello che vi ha detto adesso il professor Bertolissi, un po' secondo me dovrebbe indurvi a una riflessione, cari radioascoltatori. La Gran Bretagna ha pagato un tributo di sangue, e l'ha pagato e l'ha fatto pagare, per decenni e decenni e decenni sulla questione irlandese. Certo. E anche per quello che a un certo punto ha capito che con la Scozia bisognava cambiare marcia, trattare, far votare, trattare. Meglio trattare che sparare, cioè, o no? No, ma guardi, non vorrei eccedere, ma qui c'è un precedente che è splendido per quel che riguarda la possibilità per noi di riflettere. Lei sa che 20-30 anni fa circa, la 1998 anzi, era arrivata al culmine la tensione all'interno del Canada, perché il Quebec voleva secedere. In quella circostanza il governo ha chiesto un parere alla Corte Suprema canadese, e la Corte Suprema canadese ha detto più o meno così: i principi del diritto costituzionale canadese sono: primo, nessuno ha il monopolio della verità; secondo, bisogna tenere presente sempre le istanze delle minoranze, lì considerava gli abitanti del Quebec minoranza; terzo, bisogna aprirsi al mercato delle idee. Si fa un referendum e dopo avendo avuto l'indirizzo, si discute. Discussione. Bisogna avercele corti così. Naturalmente chi obietta ci direbbe, caro Giannino e caro professor Bertolissi, lì c'è una questione linguistica da sempre all'origine del Canada e quindi questo spiega perché, e naturalmente hanno ragione. Però questo non significa essere diventati sostenitori, per così dire, che il Segnani così formalizzati da addirittura abbracciare Carl Schmitt. Ecco, insomma, detto tutto questo, intanto grazie professor Bertolissi e adesso andiamo alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qui in diretta, cari ascoltatori, e adesso dedichiamo un po' di minuti a una questione che nell'informazione italiana praticamente non è arrivata. Io vanamente, insieme a pochi altri, qua, quattro gatti sparuti, in quei giorni ho twittato molto a favore di che cosa? A favore del fatto che il 25 di settembre si è tenuto un referendum in cui si è chiesto ai curdi, anche lì era un referendum consultivo per aprire richieste di un diverso regime nei confronti delle autorità centrali irachene. Ecco, e questo referendum è, a mio modestissimo giudizio, molto importante. Primo, perché vorrei che vi ricordaste che la questione curda è un'altra questione storica, radicata, risolta nel sangue, reprimendo una richiesta di autodeterminazione che è molto antica, repressa nel sangue per via del fatto che il Kurdistan è in una regione di grandissimo attrito storico tra un tempo l'impero russo, la Turchia, eccetera eccetera. E che cosa è successo? Che di fronte a questo referendum tutte le potenze regionali, quindi Erdogan, che ha minacciato immediatamente azioni militari, ovviamente il governo centrale iracheno è contrario, l'Iran e anche gli Stati Uniti hanno detto assolutamente no, no e no. Allora, questo no, no e no nei confronti dei curdi, che ve lo ricordo sono stati in primissima fila, in trincea, a morire nei confronti di Saddam prima che lo facesse l'Occidente male come l'ha fatto, ma perché repressi con i gas, con gli aerei e gli elicotteri contro ISIS, vogliamo ricordare il contributo per favore dei curdi e così via. Allora, che noi di fronte a questa vicenda A rimaniamo indifferenti, B quando ha un impatto sull'equilibrio dell'area molto delicato, per così dire, e in cui oramai la Russia di Putin gioca un ruolo di primo piano per via di essere andata con gli stivali sul campo e non solo con le navi e gli aerei in Siria, e noi restiamo completamente indifferenti a una vicenda malgrado i curdi li abbiamo, scusate, utilizzati, ecco, a me lascia senza parole. Allora, Fausto Viloslavo, inviato di guerra che si occupa da sempre di questa come di tante altre vicende nella complicazione dei grandi testate che poi gli inviati di guerra, non ci sono mai soldi, eccetera, quindi si devono auto-organizzare, e giustamente mi ha fatto notare, ma perché non parliamo un po' di questa faccenda curda? E io quello che posso fare, se non è convinto, è dire sì, Fausto, grazie. Come la vedi? La vedo innanzitutto che appunto un po' due pesi, due misure mediatiche, no? Per Barcellona e la Catalogna, giustamente, in Europa, vicino a noi, andiamo a fare le vacanze a Barcellona, chi non è stato alla Rambla, eccetera, qui c'è una esposizione mediatica incredibile. Però peccato che una settimana prima anche un popolo di 5 milioni di persone, che poi sono 5 milioni di persone nel nord dell'Iraq, i curdi sono ben di più in Turchia, in Iran, in Siria, hanno deciso di votare un referendum, come hai detto, consultivo sulla indipendenza dall'Iraq. Tra l'altro il presidente curdo Barzani, intelligentemente, perché conosce bene l'ambiente, insomma, e difatti hanno mosso subito i carri armati tutti quanti, non solo gli iracheni ma anche i vicini, soprattutto turchi e iraniani, il presidente Barzani non ha proclamato nessuna indipendenza, non ha neanche annunciato il risultato di fatto, cioè non ha annunciato neanche lui, e non si è messo, ha fatto questa mossa mossa per dire bene, trattiamo e vediamo dove la arriviamo. La cosa impressionante, no? Per me, ma chiedo a te giudizio perché ne sai molto più di me, è che mi sembra molto più saggia, sia pure scottante per il livello di violenza che può scatenare lì, saggia e prudente la decisione di farla, ma di tenersi freddi di quanto non avvenga nell'Europa, che dovrebbe invece ricordare essere più fredda. Non lo so, io ho questa impressione. No, il che è incredibile, è un posto dove prima si spara e poi si discute, no? Mentre l'Europa, che dovrebbe essere un posto al contrario, invece insomma sia Madrid che Barcellona sono su fronti apposti abbastanza intransigenti, insomma, no? Mentre là dove appunto prima si spara e poi si discute, invece il Barzani di turno, il presidente curdo di turno, è molto cauto, dice va bene, abbiamo votato, ma abbiamo votato per trattare. E nonostante questo, Erdogan ancora una settimana prima, e nessuno lo scriveva, nessuno l'ha scritto, oggi è uscito un pezzo così su Panorama per opera dello Spirito Santo, che sono riuscito insomma a dire rendiamoci conto di cosa sta succedendo, cioè mandano i carri armati al confine, poche ore fa il presidente turco ha detto ma noi chiuderemo lo spazio aereo definitivamente, hanno già proibito i voli commerciali, non si vola più su Erbil, il capoluogo, capitale del Kurdistan, come vogliamo chiamarla, e bloccheranno tutti i confini, gli iraniani. Ma com'è che in Italia l'Italia è avvenuta questa cosa, oltretutto con nostri militari lì? Sì, ecco, per di più, ecco, questa veramente, cioè, l'Occidente, no? L'Europa stessa, perché poi tra l'altro è una missione europea, perché gli americani sono un po' fuori. Noi da 2 anni e mezzo addestriamo i curdi. Perché addestriamo i curdi? Perché li abbiamo usati bellamente come carne di cannone contro lo Stato islamico, che stava per conquistare anche il Kurdistan nel 2014, quando era arrivato a Mosul, alle porte di Baghdad e così via. Quindi certo, è anche nell'interesse dei curdi, ma io là ci sono stato con i nostri paracadutisti che iniziarono l'addestramento, parlavo con questi sia veterani, sia ragazzini curdi che si arruolavano, i cosiddetti peshmerga, no? Votati alla morte, famosi insomma storicamente, e gli dicevo combattete anche per noi, fanno sì combattiamo anche per noi, però anche per voi, però è chiaro che quando finirà tutto, quando risolveremo il problema dello Stato islamico, come è stato risolto, perché ormai lo Stato islamico è stato sconfitto in Iraq, almeno nelle sue capitali, almeno sulla linea del fronte curdo, poi chiederemo ovviamente insomma la possibilità di avere maggiore autonomia, di votare per l'indipendenza. Ma questo lo dicevo 2 anni fa, quindi se lo sapevo io giornalista ci andavo, figuriamoci i nostri che lo addestravano. Il bello è che là, tra l'altro, continuiamo ad addestrarli e abbiamo 1200 uomini, 500 soldati italiani del terzo reggimento alpini che presidiano e difendono la diga di Mosul, che stiamo rimettendo a posto con una ditta italiana, con un contratto tra l'altro con Baghdad, ma la zona è controllata dai curdi e lo facciamo assieme ai peshmerga curdi, e gli altri continuano l'addestramento nel contesto della missione europea, che sa benissimo dove i curdi volevano arrivare, lo sa fin dall'inizio, gli abbiamo dato addestramento, gli abbiamo dato armi, e adesso il governo iracheno dice anzi dovete ritirare e chiudere tutte le rappresentanze diplomatiche, ovviamente tutti questi paesi, compresa l'Italia, ha un consolato ad Erbil, no? Perché abbiamo 1200 soldati, dovete ritirarli, dovete chiuderli perché... Ma scusi, ma la domanda è, ma siamo ipocriti o cretini? Ma difatti, questa è la domanda, difatti non volevo usare il termine ipocriti, perché forse io temo che talvolta siamo anche un po' cretini, no? Cioè, o quantomeno non ci rendiamo conto che queste sono zone delicate in cui non è che poi fa una mossa, vabbè, adesso gli usiamo quel carne e cannone senza pensare a cosa succederà dopo, no? Quando l'ISIS verrà sconfitto o sta per venire sconfitto, no? E questo è il punto. E allora ci troviamo in un bel vespaio. Tra l'altro, una cosa curiosa, drammatica secondo me, è che, come hai detto tu giustamente all'inizio, tutti sono contro i curdi, ma tutti, compreso l'ONU, addirittura il segretario generale dell'ONU ha detto no, non va bene sto referendum, cosa avete fatto, eccetera, di cose l'ONU, no? Autodeterminazione dei popoli, se non è l'ONU, almeno che spenda la parola chi la deve spendere. Il bello della vicenda è che l'unico paese, e anche per questo ovviamente c'è una reazione di Turchia, Iran, Iraq, eccetera, l'unico paese che ha appoggiato pubblicamente, ufficialmente, col suo primo ministro, chiaramente il referendum e le aspirazioni dei curdi, è Israele. Tra l'altro, anche questo è passato proprio così sottotono, anzi insomma, nessuno l'ha pubblicata, l'ha pubblicata all'estero ma non in Italia, a parte appunto penso il Panorama in edicola, se no, io ho detto pubblicato questa foto, c'erano le foto il giorno, la sera, quando i seggi si sono chiusi, quando ovviamente il risultato era bulgaro, no? 92% di votanti a favore, eccetera. Però anche gli arabi hanno votato, anche gli arabi che vivono nella zona curda hanno votato a favore dell'indipendenza, perché gli arabi sono soprattutto sunniti in quel caso e il potere a Baghdad del governo centrale è sciita, e quindi dico ma meglio il male minore, insomma meglio i curdi. Però dico, assieme alle bandiere curde sventolavano le bandiere di Israele, dopodiché le hanno subito levate, no? Ma tutto questo nessuno l'ha detto, nessuno l'ha scritto, cioè in Italia sto dicendo. Vabbè, io intanto ti ringrazio per quello che fai da una vita, Fausto, e cari ascoltatori, torneremo su questa faccenda perché vedrete che avrà una certa influenza. Stamattina eravamo ad Assofermet a occuparci della storia acciaiero italiano, di quello che succede sul mercato acciaiero nel mondo. In un certo grafico, a un certo punto è uscito fuori l'impatto del referendum di cui stiamo parlando adesso, quello curdo, sui mills di acciaio, a seguito di alcune notizie e valutazioni sul fatto che in Turchia si poteva abbattere significativamente poi il consumo. La Turchia è un grande produttore ma è anche un grandissimo consumatore di acciaio, per dire, non sono proprio vicende di cui non occuparsi, anche dal punto di vista dell'economia, ma qui stiamo parlando soprattutto della nostra ipocrisia. Torniamo dopo l'informazione sulle strade. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, cari radio ascoltatori o radio interattori, come ci chiede Gennaro di chiedervi se siete favorevoli. Comunque Alessandro da Vicenza, sentiamo la sua opinione sul referendum in Veneto. Alessandro. Sì, buongiorno. Prima una precisazione su quello della Catalogna. Sì. Io sono stato veramente sconvolto dall'inadeguatezza e l'impreparazione dei giornalisti che ne hanno parlato e dei politici in questi giorni in televisione, perché non si sono, almeno io ne ho sentito quasi nessuno, a porsi la domanda se c'era un fronte del no. Quanti catalani erano contrari? Cioè hanno basato tutto su Madrid che era contraria, ma i catalani contrari dove sono? Dove erano? No, a dire la verità, dopo, nei due giorni successivi, molti giornali hanno fatto i pezzi dicendo quelli del no non hanno, sono andati a votare, si sentono, cioè molti pezzi sono usciti dando voce a chi lì si sente, non solo non è d'accordo, ma si sente addirittura perseguitato per la posizione oramai. Però insomma, al di là di questo, per quanto riguarda il referendum veneto, io credo che sia il minimo aprire una questione veneta, perché noi siamo considerati il nord-est di che cosa? Di un'entità, nessuna altra zona è considerata il sud-ovest, il centro, il sud di che cosa? Noi siamo una regione che ha dato tanto. Non è solo una questione economica, è una questione storica, è una questione di popoli, è una questione che veramente, se dopo 160 anni sotto le braci ancora dei veneti c'è qualcosa che bolle, vuol dire che nel popolo veneto ci sono dei sentimenti e non si possono trascurare in questo modo. Noi non abbiamo a Roma rappresentanti che hanno potere decisionale, non abbiamo un ministro adesso veneto e non so da quanto tempo, quindi la voce vogliamo alzarla non per egoismi personali, ma perché se anche la regione Veneto ha dimostrato di gestire bene le risorse, non vediamo perché dobbiamo farlo fare sempre agli altri. A queste condizioni un ultimo inciso, sì. Il PD, che alcuni hanno, si sono stati a favore, come linea, come la Rubinato, sì, ed altri. Su Rubinato ci ha scritto anche un libro, la sentiremo. Esatto. Sì. E altri organizzano la serata del no, invitano l'assessore della regione Emilia Peretti, che è assessore per il riordino istituzionale. Allora, riordino istituzionale cosa vuol dire? Che c'è un disordine, un casino istituzionale, e poi noi veneti, con tanti di deputati presenti, chiamiamo sempre qualcuno dall'esterno che venga a insegnarci a come riordinare. Però la Simonetta aveva scritto un libro a favore della richiesta del più autonomo. Sì, Simonetta, ecco. Sì, infatti questi... Simonetta Rubinato ha anche un comitato per il sì, era stata la prima. Esatto. Ma poi la Serracchiani ed altri sono contrari. Perché poi, anche perché Renzi è durissimo quando fa le feste dell'unità locale, dicendo... Chiamano dall'Emilia Romagna, voglio dire, anche i deputati veneti che legittimamente o le persone che sono contrarie. Chiari, ma sentiamo, aspetta un secondo, non ti voglio interrompere, però ho avuto cosa. Pietro da Ravenna. Sì, buonasera. Rapido, Pietro. Sì, avevo letto sul Messaggero che l'Emilia Romagna aveva iniziato il percorso di richiesta l'ha di maggiore comunicato, autonomia. Non l'ha deliberato, ma non l'ha comunicato. Ecco, sì. Infatti, allora già era impreciso l'articolo in quel senso. Però, visto che sono d'accordo con le maggiori autonomie, e secondo me lo Stato federale è probabilmente la forma migliore, come diceva anche il professore prima, e sono d'accordo. La mia domanda è: perché allora le regioni del nord, che legittimamente magari perché non si mettono in perché fanno il referendum? Perché, come ho elencato prima, tanti hanno già provato senza referendum consultivo, cioè